si assottigliano in silenzio, come se all'improvviso tutto si fermasse immobile. Quante volte, quante ancora rivivrò questi momenti, come un folle ormai in balia di ordinari movimenti. Soffia un vento di stupore sopra i volti raggelati e gli sguardi come l'ombra che si forma con le luci. E vivo la mia vita fugace, gioco fragile, cercando un equilibrio stabile. Io sono uguale a te e non sarà mai tardi per ridere e sognare e farmi trasportare da fiumi di ricordi. Sanno dire, non sono fatti solamente per guardare, e siamo uguali noi, che siamo vivi e siamo umani, e impariamo dagli errori, scriviamo favole a colori e sfidiamo il male in pesce e cani. Abbiamo ali e grande voglia di volare, spinti da venti, d'aria pura il soffio vitale. L'attesa mette l'ansia da profuso mormorì, voluta circostanza, quel momento adesso è mio. Io piccolo fanciullo eterno in cerca di attenzioni, che accetta con coraggio il continuo flusso di stagioni. Mi muovo, faccio un passo, la mia sorte è appeso un filo, e seguo acrobazie, a volte c'è mancato un pelo. E guardo questo cielo fatto a forma di tendone, sollecitando fiduciosa aspirazione. Io sono uguale a te e non sarà mai tardi per ridere e sognare e farmi trasportare tra fiumi di ricordi. Abbiamo ali e grandi.